Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:07:38. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Come avrete sentito anche nei giornali radio, in realtà è tutt'altro che una buona serata quella di oggi, perché ancora una volta Milano è la peggiore d'Europa, ancora una volta c'è una pesantissima reazione delle borse. Il FTSE MIB cede il 2,77%, il FTSE share il 2,6, mentre nel resto d'Europa si perde intorno al punto e mezzo percentuale. Ancora notizie dagli spread, ossia i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che sono risaliti sopra quota 312 punti, quindi sempre più vicini alla quota raggiunta poche settimane fa, quando si era nel pieno della crisi del debito greco e non si sapeva come se ne sarebbe usciti. Si era arrivati a 360 punti addirittura, e comunque il trend in questi ultimi giorni è un trend di crescita. È proprio per questo che partiamo da qua e ci colleghiamo con la redazione di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e con Paolo Paronetto in apertura, che poi ritroveremo dopo anche per commentare i singoli titoli, per dare un quadro più complessivo della giornata. Però quello che vogliamo capire da te, Paolo, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti. Perché sono scattate le vendite in maniera così potente nell'ultimo paio d'ore? Sì, beh, diciamo che l'avvio, oggi tutta la giornata fin dall'avvio era negativa, certo sono state accentuate le vendite nelle ultime ore, diciamo che è un insieme di fattori, il principale sono sempre le tensioni sulla crisi del debito, che ormai è una crisi globale, oltre alle tensioni in Europa ci sono ovviamente anche quelle negli Stati Uniti, dove ancora non c'è un'intesa tra democratici e repubblicani per un innalzamento al tetto del debito, e inoltre continuano le incertezze su come verrà operativamente messo in campo il piano di salvataggio della Grecia, con il governo tedesco che sembra frenare sull'ipotesi di acquisto dei bond pubblici dei paesi in difficoltà, e allarmi anche su altri paesi periferici dell'Eurozona. Ci sono state, Paolo, anche una serie di sospensioni, se ho ben capito? Sì, molti titoli, tra quelli in forte ribasso, sono finiti in asta di volatilità. In questo momento l'unica è Mediolanum, ma ha riguardato gran parte dei titoli, soprattutto dei finanziari, che sono tra i titoli che hanno perso di più. E proprio sui finanziari diciamo che ci sono stati anche qui una serie di fattori. Oggi il Financial Times ha aperto il dorso finanziario sottolineando la strategia di Deutsche Bank, che ha ridotto drasticamente nel primo semestre la propria esposizione sul rischio sovrano italiano, e quindi quando ovviamente crescono i dubbi sul rischio sovrano di un paese sono le banche di quel paese le prime naturalmente le prime a soffrire. Allora, grazie Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, poi ti ritroveremo più tardi anche per il commento sui singoli titoli, al di là forse dei finanziari che veramente hanno fatto storia a sé. Rispondiamo a Mario che ci ha scritto al 349-238-6666 chiedendoci il perché Unicredit è stato sospeso. Ce l'ha appena spiegato Paolo Paronetto, è stata di fatto una sospensione dovuta perché è scattato un ribasso improvviso e molto forte. Allora, in questa puntata di Focus Economia parleremo naturalmente di mercati, lo faremo alle 17:45 circa, a 17:40 di nuovo appunto con Paolo Paronetto di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, per fare il punto sui singoli titoli, e poi lo faremo ancora nella seconda parte del programma con due ospiti per capire, per cercare di aiutarci a leggere un po' meglio questa fase di mercato che è molto nervosa, da quel che vediamo e da quel che vedete. Parleremo invece in apertura di un altro argomento e ci sembra Piuttosto interessante ed è quello degli sconti sui libri. Che cosa è successo? È successo che nei giorni scorsi è passata una legge che limita gli sconti ai libri al 15%, cioè venditori di libri non potranno fare sconti superiori al 15%. C'è stata una levata di scudi da parte alcuni pensatori, come quelli dell'Istituto Bruno Leoni, addirittura un appello al Presidente della Repubblica, perché chiaramente, insomma, andrà a tutela di qualcuno questo provvedimento. È però naturale che una limitazione della concorrenza. C'è chi l'ha chiamata una legge che è stata fatta apposta per colpire siti come Amazon e IBS, che si possono permettere con la vendita online, appunto, di fare sconti molto più ampi. Questo è quanto. Ora le notizie in breve. Allora, il petrolio ha aperto in calo a New York, $98.46 al barile, il calo è dell'1,1%, da segnalare che oggi sono stati diffusi i dati sulle scorte. Nella settimana terminata il 22 luglio le scorte sono cresciute di 2,296 milioni di barili, mentre gli analisti si attendevano un ribasso di 1,4 milioni di barili. Ancora un record per l'oro, praticamente non ce lo facciamo mancare mai, a $1.631.20 l'oncia, quotazioni ai massimi storici sia a New York che a Londra, dove il prezzo ha toccato i $1.628.05. Ci sono dei dati che sono arrivati dagli Stati Uniti, anche questi hanno avuto un impatto sui mercati perché hanno spinto al ribasso Wall Street e conseguentemente anche le borse europee, ma naturalmente non è solamente questo, come per esempio gli ordini dei beni durevoli a giugno sono scesi del 2,1%, nettamente peggiore il dato delle stime degli analisti che avevano previsto un rialzo dello 0,3%. E poi ci sono tutte le questioni che riguardano il debito sovrano, a partire naturalmente da quello degli Stati Uniti, con questa trattativa sul default ancora in corso, default o meno, default tecnico naturalmente, come abbiamo detto. E naturalmente quelli che riguardano l'Europa, dice Standard & Poor's, o meglio Davide Beers, responsabile dei rating sovrani di Standard & Poor's, che la Grecia dovrà probabilmente di nuovo ristrutturare il proprio debito nel giro di un paio d'anni. Insomma, Beers dice che secondo la sua agenzia di rating, la sua opinione secondo cui qualsiasi ristrutturazione di breve termine non è probabilmente la fine della storia, a breve potrebbe esserci una ristrutturazione più ampia. In tutto ciò continua la tensione per i titoli di Stato. Allora, i rendimenti, oggi c'è stata l'asta dei BTP, i BTP decennali, che poi sono quelli che prendiamo a riferimento quando facciamo il raffronto con i Bund tedeschi e quindi diamo lo spread, il cosiddetto differenziale, la differenza di rendimento. I rendimenti sono sopra la soglia del 4%, buona la domanda, pari a 1,593 miliardi contro i 942 assegnati, comunque l'incremento è di 156 punti base. Dopo l'asta c'è stato un rialzo e poi i rialzi sono proseguiti anche nel pomeriggio, si è arrivato ad uno spread di 312 punti tra Bund e obbligazioni di Stato italiano. Come già ci accennava Paolo Paronetto, oggi l'FT, il Financial Times, ha diffuso questa indiscrezione, un titolo che ha aperto l'edizione di oggi del Financial Times. Deutsche Bank si protegge dal rischio Italia. Che cosa è successo? Che Deutsche Bank ha deciso di ridurre drasticamente la propria esposizione al debito pubblico italiano, meno 88% in 6 mesi. Un segnale drammatico di come gli investitori internazionali stiano scappando dalla terza economia dell'area euro, sottolinea il Financial Times. A fine 2010 è qua che è emerso il dato. Deutsche Bank aveva in portafoglio 8 miliardi di euro di debito italiano. Alla presentazione della semestrale l'ammontare si era ridotto a 997 milioni. Parla anche l'agenzia di rating Fitch, che dice per l'Italia potrebbe rendersi necessaria una manovra correttiva se l'economia frena. Questo è quello che dice il direttore generale per la finanza pubblica in un'intervista al Corriere della Sera. Tra l'altro oggi c'è da segnalare che sulle agenzie di rating ha preso duramente posizione la Commissione Finanze del Parlamento. Una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Finanze della Camera dice che le agenzie di rating fanno aggiottaggio e destabilizzano il mercato dei titoli di Stato e si chiede al governo di muoversi in sede europea per denunciare alla neocostituita European Security Market Authority esattamente le agenzie di rating. Poi ci sono le questioni della manovra. Si diceva che secondo Fitch potrebbe rendersi necessaria una manovra correttiva, intanto si discute di quella attuale. Secondo Vasco Errani, il presidente della Conferenza delle Regioni, la questione dei ticket è una scelta sbagliata, iniqua e dannosa. Chiedono le regioni un incontro urgente al governo. Questo perché? Perché ci si trova di fronte ad un intervento legislativo esorbitante, scrivono in un comunicato, non rispondente al quadro istituzionale di riferimento e comprometterà la tenuta complessiva del sistema delle relazioni istituzionali, ma soprattutto renderà molto difficile, dicono, l'equilibrio di bilancio per le regioni. Nel frattempo la Commissione bicamerale per il federalismo ha approvato il decreto legislativo con premi e sanzioni per regioni ed enti locali, provvedimento che tra l'altro prevede la rimozione dei governatori che non riescono a rispettare i piani di rientro dal deficit sanitario. E noi veniamo al primo tema di questa giornata, parliamo di concorrenza. Nel frattempo vi aggiorno naturalmente sull'andamento della borsa ancora una volta in questa giornata difficile. FTSE MIB cede il 2,8%, il FTSE All-Share il 2,63%, Parigi perde 1,5%, Francoforte altrettanto, mentre l'America fa segnare un meno 0,73% sul Dow Jones, l'euro quota 1,43,74 sul dollaro. Ci torneremo più avanti, mentre invece adesso ci vogliamo occupare di questa legge approvata il 20 luglio in via definitiva al Senato, che fissa dei limiti su sconti e promozioni per la vendita di libri a partire dal prossimo settembre. Il tetto si applica anche ai rivenditori online e probabilmente sono stati proprio loro a far generare questa legge, perché insomma su Amazon, su IBS, su Ball si trovano sconti anche fino al 40-50%. Insomma, sconti non si possono applicare sconti superiori al 15%, solo in situazioni di particolare rilevanza si può arrivare al 20%, come per esempio il Salone del Libro di Torino. Le campagne promozionali possono durare al massimo un mese e non si possono effettuare nel mese di dicembre, cioè quando i libri si vanno a comprare per Natale. Allora, io saluto il primo firmatario del DDL sulla disciplina dei prezzi dei libri, che è Riccardo Franco Levi. Buonasera. Buonasera a lei. Che è primo firmatario e il secondo ed è del PD, e il secondo firmatario è del PDL, quindi mi corregga se sbaglio, Levi, eh? No, no, è giusto, diciamo, è giusto. Della legge io sono stato il promotore ed è una legge che risale a un'iniziativa nella scorsa legislatura del governo Prodi ed era una parte di una più grande e ampia riforma dell'editoria, però è stata questa una legge che ha avuto un appoggio in questa legislatura unanime da tutto il Parlamento ed è stata infatti approvata unanimemente sia dalla Camera che dal Senato. Mm. Allora, e lei appunto è la persona che in questa occasione difenderà la legge, ma naturalmente abbiamo anche una persona che per così dire la osteggia, ed è Serena Sileoni, che è responsabile editoriale Liberi Libri e ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni, e soprattutto ha lanciato una petizione rivolta al Presidente della Repubblica affinché rinvii la legge al Parlamento per una più attenta valutazione. Buonasera Sileoni. Buonasera. Allora, visto che c'è il provvedimento, partiamo da Levi e ci facciamo spiegare. Io vorrei capire la ratio della legge, perché a mia sensazione, da consumatore, quindi non da editore, insomma non da persona coinvolta e nemmeno da scrittore, a me sembra una lesione per me consumatore. Insomma, io voglio dire, posso comprarmi da IBS o da Amazon o anche nelle grandi librerie, insomma, che vendono i libri fisicamente, non online, in questo momento dei libri con sconti anche del 30%. Francamente è un piacere. Perché ci toglie questo piacere, Levi? Allora, innanzitutto ricordiamo esattamente cosa dice la legge. La legge dice che gli editori sono assolutamente liberi di fissare il prezzo che vogliono per le loro pubblicazioni, ossia il prezzo di partenza, il prezzo di copertina è un prezzo che l'editore fissa in assoluta libertà, per cui libero di fare tutta la concorrenza che vuole. Beh, mi perdoni se la interrompo, Levi, ci mancherebbe altro però. Io sto solo... Se mi dà il tempo, sì, sì, prego, prego, prego, no, mi scusi. Ma per cui c'è l'assoluta libertà nel definire il prezzo del libro. Dopodiché, la legge disciplina gli sconti, ossia le riduzioni di prezzo rispetto al prezzo di partenza o di copertina fissato dall'editore, e lo fissa secondo due canali, diciamo. C'è il canale degli sconti applicati direttamente dalle librerie, o meglio dai punti di vendita al dettaglio, ossia dalla piccola libreria indipendente sino alla grande libreria di catena, dal supermercato, dall'ipermercato che vendono libri, sino al grande negozio di vendita online, Amazon o le altre sigle di vendita online. Stiamo parlando sempre di libri fisici, non di ebook scaricabili su internet, di cui questa legge non si occupa. Dunque c'è, per tutte le vendite al dettaglio, lo sconto massimo può arrivare al 15%, oppure, come lei ha ricordato, al 20% in alcune occasioni speciali. Accanto a questo ci sono le promozioni, ossia le campagne promozionali che gli editori fanno per sostenere la vendita delle proprie pubblicazioni. In queste campagne di promozione lo sconto può arrivare al 25%, con la previsione, tutt'altro che secondaria per chi si occupa e ha a cuore la libera concorrenza, che le promozioni vengano offerte alle medesime condizioni in tutti i canali della distribuzione, ossia non potrà più avvenire, come avviene oggi, che un grande editore offra una promozione alle sole librerie da lui possedute, oppure solo alla grande distribuzione e non alla distribuzione delle librerie. Per cui cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto disciplinare la pratica degli sconti per far sì che ci siano condizioni di concorrenza uguali tra tutti i punti di vendita al dettaglio e tra tutti gli editori, per evitare che gli sconti, che rimarranno, perché oggi chi va in libreria normalmente può avere uno sconto del 10%, il massimo sarà il 15%, e lo sconto del 25% nella promozione è comunque lo sconto che normalmente praticano gli editori nelle librerie, per cui la possibilità di continuare a avere sconti, ma evitando che gli sconti diventino un'arma impropria in mano ai soggetti più forti del mercato, siano essi punti di vendita o editori, che possano determinare l'espulsione dal mercato dei soggetti più deboli. Allora, e questo perché? Perché la legge ha due grandi obiettivi. Da un lato quello di contribuire a raffreddare, per così dire, la dinamica dei prezzi, e se noi lavoriamo solo sugli sconti è chiaro che un editore replica alzando il prezzo di partenza, come quando allo stadio uno si alza in piedi per vedere meglio la partita e poi si alzano tutti e tutti vedono la partita esattamente male come prima, ma più scomodi. Ma l'altro elemento fondamentale, accettato da tutte le regole di concorrenza in Italia, in Europa e nel mondo, con un valore affermato nelle regole dell'Unione Europea, scritto nella nostra Costituzione, il pluralismo della informazione, la ricchezza dell'offerta culturale sono valori che vanno difesi, esattamente come la libertà dell'impresa, per cui si tratta di bilanciare due diritti. Noi crediamo di aver trovato un equilibrio ragionevole tra queste due diverse ragioni. Allora, il Parlamento l'ha approvato e vorrei dire l'ha approvato anche l'antitrust italiano. Allora, mi sembra assolutamente chiara la sua posizione. Ci sono già moltissimi SMS le dico la verità, lei non sono propriamente teneri da questo lato, perché appunto, come si diceva, sono alla fin fine SMS di consumatori. Allora, noi adesso abbiamo una breve pausa e poi io chiamerò in causa Serena Sileoni, che, come si diceva, ha lanciato una petizione affinché rinvii la legge al Presidente della Repubblica, affinché rinvii la legge per una più attenta valutazione. Una breve pausa, quindi il meteo, e poi ci ritroviamo tra un attimo, leggeremo anche qualche SMS per dare un po' l'idea. Le 17:32 minuti e 30 secondi, ci sono tantissimi SMS da parte vostra, al 349-238-6666. Assicuro a Riccardo Franco Levi che non sto censurando quelli a favore, ma finora ce ne sono solo di negativi, oltre a non fare liberalizzazioni tirate su altri muri, e ancora legislatori del XVIII secolo, così si uccide la libera concorrenza, chiedono se siamo in Italia o in Unione Sovietica. Poi magari le farò rispondere a qualcuno di questi ascoltatori, Levi, ma prima sentiamo Serena Sileoni. Lei ha lanciato questo appello al Presidente della Repubblica, tra l'altro lei è responsabile editoriale di una piccola casa editrice e quindi in tutta teoria dovrebbe essere tutelata da questa legge. Sileoni. Sì, anche se leggerei la legge prima di tutto come lettrice, perché tutti noi siamo lettori, tutti gli italiani sono lettori, una minoranza degli italiani è editore, libraio o comunque lavora nel settore editoriale, e se la finalità della legge, come leggo dall'articolo 1, è la promozione del libro e della lettura e la diffusione della cultura, dovremmo capire se davvero i lettori, che noi tutti siamo, potranno beneficiare di questa legge. Quindi io vorrei leggere la legge appunto sia con il cappello della lettrice che si reca abitualmente in libreria o che usufruisce degli sconti di IBS, sia con il cappello della piccola casa editrice che forse in controtendenza rispetto a molte altre non ha apprezzato molto questo spirito neocolbertista della legge appena approvata, proprio perché la legge muove un po' dal presupposto che per promuovere la concorrenza e il pluralismo bisogna limitare le strategie, a volte fantasiose, a volte diversificate, di mercato che ogni editore e ogni libraio sceglie per sé. Ora, appunto, conoscendo minimamente il mercato editoriale, io so bene, come sa l'onorevole Levi, che il settore dell'editoria dal punto di vista del mercato editoriale è un settore particolare, prima di tutto perché la fissazione del prezzo segue regole proprie, una fissazione a monte dell'editore, secondo perché, non lo nascondiamo, in Italia almeno è in mano a una concentrazione di distributori, editori e catene librarie. Tuttavia appunto si può, questa è un'impostazione di fondo, si può aiutare la piccola, la indipendente editoria imponendole un divieto di strategie di mercato che sono le uniche che, differenziandosi da quelle generiche, penso alle campagne promozionali più di una all'anno, oppure ai super sconti che si facevano durante le fiere, entrambe le cose non si possono più fare, sono quelle che proprio fanno vivere questa nicchia di mercato, nonostante la difficoltà delle condizioni. Quindi secondo me, sia come editrice, anzi secondo me come editrice, la diffusione della cultura, del pluralismo dell'informazione, preferisco farmela con le mie strategie che, conoscendo il mio mercato di riferimento, posso distinguere da quelle che fanno i grandi marchi. Come lettrice poi mi pare che l'effetto immediato, e non solo immediato, di questa legge sia semplice, meno sconti, meno lettori e soprattutto meno accessibilità alla lettura da parte di quelle persone che fanno i conti in tasca con lo stipendio mensile, da parte degli studenti, da parte dei giovani ricercatori che non solo vogliono comprare libri ma debbono farlo per lavoro, avranno semplicemente occasioni in meno di recarsi in libreria e di comprare libri. Sileone, mi scusi, e qua faccio l'avvocato del diavolo, insomma, così come lo faccio con lei, è giusto che lo faccia con lei. In realtà le limitazioni esistono in molti altri paesi europei, Francia su tutti se non erro, addirittura ancora più basso lo sconto che si può praticare in Francia, no? Sì, Spagna, Germania, insomma, Germania. Ecco, diciamo, non è una cosa nuova la questa. La Svizzera ha avuto una polemica simile a quella che si sta sollevando ora in Italia, ne siamo assolutamente consapevoli, salvo che poi il nostro mercato editoriale dal punto di vista della domanda di libri è molto diverso da quello soprattutto oltralpe, e quindi prima di fare dei paragoni io starei attenta a vedere il mercato di riferimento, la società proprio di riferimento. Fondamentalmente, guardi, le leggo se posso un commento proprio all'articolo che era stato fatto appena è stata approvata la legge da Mulini a Vento, che era un gruppo di piccoli editori che avevano appoggiato questa legge, e c'è una signora che commenta, e secondo me è questo proprio il nocciolo, più leggo questa legge più capisco che se la settimana scorsa grazie al 30% di sconto ho acquistato 5 libri, con la legge nuova ne avrei presi solo 3. Dove aiuterei le librerie o i piccoli editori? Ecco, a volte la semplicità di chi non conosce magari il linguaggio giuridico o i cavilli legislativi è molto più chiara di tanti altri discorsi. Mi sembra questo il nocciolo. Mi sembra chiarissimo. Allora, al di là dei messaggi che continuano ad arrivare, ok, da domani fotocopio, chi fa la battuta, no lettura, basta e avanza il TG1, chi ci vede una legge fatta apposta per la Mondadori che ha appena dovuto sborsare quell'assegnone a De Benedetti, insomma il primo firmatario è un parlamentare del Partito Democratico che abbiamo in onda, quindi francamente mi sembra difficile, ed è stato approvato all'unanimità, quindi chi ci manda un sms dicendo è una legge da comunisti uguale PD evidentemente sbaglia, perché il secondo firmatario invece è del PDL. Allora Levi, però io vorrei farle invece rispondere a quello che a questo messaggio che è arrivato all'articolo della Sileoni, che mi sembra l'obiezione francamente più forte. Ma guardi, innanzitutto andiamo a vedere cosa è successo in Europa e nel mondo. In tutti i mercati dove non c'è stata e dove non c'è alcuna disciplina sugli sconti, analoga a quella che abbiamo introdotto noi, il risultato è stato quella di una drammatica riduzione nel numero delle librerie e degli editori. C'è stato un impoverimento drammatico del mondo del libro, sono stati espulsi dal mercato i piccoli librai e poi progressivamente i grandi librai. Voi del 24 ore lo sapete perché lo riportate, sono fallite le più grandi catene di librerie in Inghilterra, è appena fallita la più grande catena di librerie negli Stati Uniti. Perché? Perché nelle guerre sui prezzi c'è sempre qualcuno che alla fine è più forte degli altri. Prima erano più forti le grandi librerie, poi i grandi supermercati. Sì, mi scusi Levi, però il senso della concorrenza è esattamente questo. No. Stiamo parlando di libri, stiamo parlando di cultura, e il risultato di tutto questo è che in questi paesi c'è un'offerta culturale che si è fortemente impoverita, ossia non è uguale a se stesso, un paese in cui si riducono i posti dove si possono andare a comprare i libri, si riduca il numero dei libri, si riduca la diversità dell'offerta dei libri, si riduca il numero degli editori. Chi ama i libri, tutto questo lo dovrebbe apprezzare. Detto questo, voi che siete un giornale economico e che queste cose le capite bene, sapete bene che lo sconto fatto dall'editore o in qualsiasi altro settore è tutto sommato una specie di miraggio, perché oggi ti faccio lo sconto, ma il giorno dopo ti aumento il prezzo per recuperare lo sconto. Per cui noi stiamo lasciando che esistano degli sconti, ma impediamo che ci siano sconti senza limiti, perché questo provoca non solo la reazione immediata degli editori che poi recuperano aumentando domani il prezzo se hanno visto che oggi hanno un introito ridotto dagli sconti, ma soprattutto, ripeto, questo porta a una drammatica riduzione nella ricchezza dell'offerta culturale. Chi ama i libri, chi ama, e per quello abbiamo detto che con questo miriamo a mantenere la creatività, a sostenere il libro alla lettura, esattamente per questo. Una domanda, mi scusi l'estrema semplicità, perché poi non sono poi questo conoscitore approfondito del, come dire, di tutto il settore, di tutta la filiera, ma se una libreria ha in magazzino un libro nuovo da, mettiamo, 5-6 anni e non riesce a smaltirlo senza uno sconto notevole, perché non lo può fare? Cioè, perché diventa illegale? Se è un resto di magazzino che non viene venduto, è una vendita che rimane esclusa dalle provvigioni di questa legge, ossia la liquidazione di fondi di magazzino che non vengono movimentati, non vengono venduti, libri che, ripeto, non trovino acquirenti da molti mesi, quelli possono essere venduti liberamente. Che tempi? Cioè, che tempi ci sono? Quanti dopo mesi? Dopo 6 mesi che un libro non viene venduto può essere... Ma guardi, le leggi sulla concorrenza in tutto il mondo considerano il mondo della cultura un mondo che merita una protezione particolare. Tant'è che lo stesso presidente dell'antitrust, ossia dell'autorità garante della concorrenza, è venuto in Parlamento ed ha apprezzato questa legge, dicendo che è coerente con gli obiettivi che si pone un'autorità che deve vigilare sulla concorrenza, e ha trovato che l'equilibrio che si è trovato tra la libertà dei consumatori e degli editori di avere accesso a buone condizioni di acquisto, la libertà degli editori di fissare il prezzo e di promuovere le loro campagne e di sostenere con libere pratiche commerciali le proprie pubblicazioni, e l'interesse della collettività, oltre che dei lettori, ad avere un ricco offerta culturale, l'equilibrio tra queste diverse esigenze è stato trovato in modo adeguato da questa legge, al punto che è stata approvata all'unanimità da tutto il Parlamento. Tra l'altro, nel momento in cui noi facevamo la legge, siamo stati subissati da SMS, mail, che sostenevano esattamente la linea opposta, sì, nel senso che si dovevano fare leggi che impedivano addirittura qualsiasi possibilità di sconto, proprio visto dall'altro angolo, voglio dire. Noi credo che ci siamo trovati davvero un punto di equilibrio. Allora, io stiamo quasi per chiudere, per dare la linea alla viabilità, e poi naturalmente verremo sui mercati in questa giornata intensa. Un'ultima battuta per Serena Sileoni, alla quale vorrei chiedere se lei aveva in mente qualcosa di diverso, perché quello che dico è che alla fin fine, per almeno dal lato del ragionamento generale, poi uno può non condividere la legge, il ragionamento di Levi ci sta, ossia l'industria culturale, oltre ad essere un'industria, è cultura, appunto, e quindi in qualche misura deve essere tutelata. Guardi, le rispondo e ne approfitto anche, se posso, per replicare all'onorevole Levi. Sì, è vero, l'antitrust ha dato parere favorevole, anche se ha parlato di un prudente equilibrio equilibrio, quindi insomma con un piccolo distinguo, ma comunque io vedo, parlava Levi di impoverimento che c'è stato nella ricchezza dell'offerta culturale, laddove non c'è stata una presa di posizione da parte del legislatore. Ora qui forse stiamo provando un po' troppo, nel senso che dovremmo, forse sono tanti motivi per l'impoverimento dell'offerta libraria, quindi parlare soltanto, dare soltanto la colpa agli sconti mi sembra provare un po' troppo. Però se prima ho parlato da lettrice, cioè da chi domani non beneficerà più di alcuni sconti, mi permetta di parlarle da editore che, sì, essendo piccolo, forse contribuisce a questa offerta. Le chiedo di essere breve soltanto. Sì. Le dico soltanto due cose. Noi non potremmo fare più due strategie che usualmente tutti i piccoli editori fanno proprio per promuovere il pluralismo culturale, e cioè consentire alle librerie indipendenti di fare degli sconti superiori sui nostri libri, considerando che, non ce lo nascondiamo, i libri delle piccole case editrici non ci arrivano nemmeno nelle grandi catene, non arrivano nemmeno negli scaffali del retrobottega, quindi noi agiamo soltanto spesso con librerie indipendenti e possiamo fidelizzarle se possono fare sconti forti, e poi non potremo più avvantaggiarci di quello che per noi è un settore fondamentale, cioè il settore elettronico e i grandi sconti sul settore elettronico, che bypassa completamente il problema del collo di bottiglia della distribuzione, oltre al fatto delle promozioni. Sono tre strategie che facevano fino adesso i piccoli editori non le potranno fare più, e quindi si impoverirà proprio quella offerta culturale che dovrebbe essere garantita da questa legge. Grazie, le due posizioni in campo ve l'abbiamo date. La saluto Riccardo Franco Levi, dicendole che sulla cinquantina di messaggi più o meno, forse qualcosa di più, contrari a questa legge, ne sono arrivati un paio che erano d'accordo con lei, se la può confortare in qualche modo. Buonasera. Grazie, buonasera a voi. E grazie a Serena Sileoni, responsabile editoriale Liberlibri e ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera. Buonasera. Allora, adesso la viabilità, ci ritroviamo subito dopo con i mercati. Beh, come si diceva, molti i vostri sms, ma perché tutelare solo i prezzi dei libri e non su altre cose, come per esempio i computer, ci dite, ci parlate delle videoteche che a loro volta insomma stanno in gran parte fallendo. Il tema è aperto, avete sentito le due posizioni in campo, mi sembra che il vostro giudizio sia abbastanza unanime. I mercati. Di nuovo con Paolo Paronetto, Radio Cori Il Sole 24 Ore. Paolo, buonasera di nuovo. Paolo, di nuovo buonasera. Dunque, giornata ancora una volta pessima per Milano, mentre andavano male le altre borse, malissimo Milano. Esattamente, Milano ha perso quasi un punto percentuale più di Madrid, che è un altro paese periferico dell'Eurozona, quindi tra i più colpiti dalle ultime tensioni, mentre sia Parigi che Londra che Francoforte hanno perso meno di un punto e mezzo. Come dicevamo prima, a penalizzare Milano sono stati proprio quei fattori che hanno fatto sì che sul mercato aumentasse la percezione di rischio collegato all'Italia, tra cui appunto la decisione di alcune grandi banche internazionali di ridurre drasticamente la loro esposizione sul nostro paese, l'aumento degli spread tra i titoli di Stato e una generale incertezza appunto sulla situazione del debito di tutti i paesi periferici dell'Eurozona. Allora, in tutto ciò, come già dicevamo, naturalmente sono andate giù tutte le banche, ci sono state sospensioni al ribasso e poi riammissioni, no? Sì, esattamente, altra di volatilità che ricordiamo è una sospensione tecnica, quando tra due contratti successivi c'è uno scostamento troppo elevato, i titoli vengono sospesi per un certo periodo di tempo. Bene, allora vediamo di dare un quadro. Fondiaria Assai meno 5,81%, Ubibanca meno 5,6%, il Banco Popolare meno 5,3%, Intesa San Paolo meno 5,13%, giù di quasi il 5% Mediobanca, del 4,3% Unicredit, del 3,99% Mediolanum, e poi usciamo dai finanziari, Prismian c'è cioè del 3,89% e ci ritorniamo con Azimut che lascia sul terreno il 3,85%. Allora, inizierei anche, parlerei anche di Fiat che cede il 3,77% ed Exor, la controllante, il 3,8%. Qua ci sono naturalmente i conti di ieri, ma è una giornata nera per tutto il settore oggi, no? Esattamente, Fiat Fiat già ieri aveva perso terreno dopo la pubblicazione dei conti semestrali che, seppur positivi dal punto di vista dei risultati economici, avevano un po' sorpreso negativamente il mercato dal punto di vista del livello del debito. Quindi Fiat ha perso terreno anche oggi, e oggi ha pesato molto anche l'andamento negativo di tutto il settore auto europeo. Sono infatti usciti i conti di altri grandi gruppi europei che non sono piaciuti particolarmente al mercato. Il sottoindice del settore ha perso il 2,15%, e a pesare sono soprattutto le stime sull'intero 2011 diffuse dalla francese Peugeot, che appunto hanno sorpreso negativamente gli analisti. Il titolo Peugeot a Parigi ha perso il 7,61% ed è stato il peggiore a livello europeo in tutto il comparto, trascinando tutti gli altri al ribasso. Allora, abbiamo accennato al ribasso di Mediolanum, un meno 4%, che però non è dovuto solamente alla situazione di mercato, Paolo, ci sono anche i conti, no? Sì, ci sono anche i conti. In particolare la società ha annunciato di aver svalutato i titoli governativi greci in portafoglio con un impatto di 14 milioni, e questo è stato tra i fattori che hanno contribuito al ribasso odierno, che comunque, ricordiamo, Mediolanum ovviamente è un titolo finanziario, quindi è sceso insieme a tutto il comparto, ma c'è sicuramente anche questo fattore. Chi ha presentato i conti e non fa parte del comparto finanziario invece è Saipem, che lascia sul terreno il 3,16%. Esattamente, Saipem ha fatto peggio del resto del settore petrolifero. I conti, secondo i giudizi circolati nelle sale operative, sono stati tutto sommato in linea con le aspettative. La società ha anche confermato i target migliorativi annunciati alla fine del primo trimestre, secondo qualche analista, però è un mercato talmente con un trend talmente negativo che diciamo che gli operatori premiano quelle società, gli investitori premiano quelle società che comunicano sorprese positive. Saipem è stata in linea con le attese, quindi anche in questo caso è stata penalizzata. Allora, in ribasso oggi troviamo anche Telecom Italia giù del 3,49, così come la Popolare di Milano, Generali giù del 3,25, Enel del 2,8, così come Parmalat, Enel Green Power giù di 2,5 punti, Atlantia del 2,17, A2A del 2,13, Eni che cede l'1,78%, andiamo su quelli in positivo, anche se veramente sono pochissimi, perché sono sul FTSE MIB sono solamente 5. In pregilo, più 1,41%, è il titolo migliore oggi. Esattamente, oggi in pregilo ha beneficiato del ritorno delle ipotesi che già erano circolate qualche mese fa di un riassetto all'interno dell'azionariato, in particolare all'interno della holding Eagle, che è l'azionista di riferimento di Impregilo. Si parla da tempo di una possibile uscita della famiglia Ligresti, e proprio oggi sono tornate queste indiscrezioni che sottolineano come la quota della famiglia Ligresti potrebbe essere acquistata dalla famiglia Gavio, che insieme ai Benetton è uno degli altri azionisti di Eagle, e quindi questo ipotetico riassetto nell'azionariato ha oggi messo i titoli in pregilo sotto i riflettori. Pirelli più 1,20%, anche qua ci sono i conti. Sì, in questo caso si tratta appunto di conti che invece sono stati giudicati molto positivamente dal mercato. Nel primo semestre del 2011 Pirelli ha raddoppiato l'utile netto rispetto allo stesso periodo del 2010, e la società ha anche rivisto al rialzo le stime di redditività, quindi sul margine EBIT, per l'intero 2011. Dei dati appunto accolti positivamente dal mercato, che ha premiato il titolo, che ha accelerato il rialzo dopo la diffusione dei conti, è appunto stato tra i migliori tra le blue chip milanesi. Tra i titoli in positivo ci sono anche Ansaldo, che i conti li ha presentati ieri, se non sbaglio. Sì, esattamente, i conti in questo caso sono in calo, ma un calo atteso, su cui ha pesato soprattutto l'andamento, il blocco delle attività in Libia, ma invece è piaciuto molto al mercato la revisione al rialzo delle stime sugli ordini per il 2011, che appunto è superiore alle attese della media degli analisti, e quindi gli investitori oggi hanno premiato il titolo. Bene anche Diasorin, più 0,23%, e tiene Bulgari, perfetto pareggio. Sì, questi esattamente sono gli unici titoli che non hanno registrato perdite sul FTSE MIB. Segnaliamo anche Fiat Industrial, che ha limitato molto i cali a meno 0,27, continua a beneficiare dei conti semestrali che in questo caso sono stati positivi, e da alcuni giorni che il titolo è premiato per questo, mentre poi tutti gli altri titoli sono in ribasso. Bene, altri titoli di giornata, altri cali, perché poi da questo punto in avanti sono tutti cali. Tenalis giù dello 0,43, Lottomatica dello 0,71, Mediaset dello 0,72, Luxottica dello 0,8, Tots dell'1,10, Monte dei Paschi dell'1,15, Buzzi Unicem dell'1,28. Insomma, tutti ribassi superiori al punto e mezzo percentuale, compresa Snam Rete Gas, Finmeccanica, ST Microelectronics, Autogrill, Campari, Eterna, insomma, e gli altri titoli ve li abbiamo detti, ah no, forse non vi abbiamo detto Eni, meno 1,78%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Grazie. E buonasera. Buonasera. Allora, questo il quadro di giornata, mentre l'euro quota 1,43,72 contro dollaro. Vi ricordiamo gli indici: il FTSE MIB è sceso del 2,81%, il FTSE All Share del 2,65%, mentre nel resto d'Europa le cose andavano decisamente meglio. Parigi meno 1,42, Francoforte meno 1,32, sempre ribassi sono comunque. Il Dow Jones si avvicina al punto percentuale di ribasso in questo momento. Ci chiedete come mai l'America, che a rischio default, perde meno del l'Europa, ce lo chiede Giuseppe da Monza. Lo abbiamo spiegato nella puntata di lunedì, perché il default, eventuale default, se non viene trovato un accordo tra repubblicani e democratici degli Stati Uniti, non è un default stile Argentina, è un default tecnico, ossia gli Stati Uniti fissano un tetto oltre il quale il debito pubblico non deve andare e devono trovare un accordo per innalzare questo tetto, modificando il budget, modificando il bilancio. Però non è che dal giorno dopo l'America non è più in grado di onorare i propri debiti, semplicemente viene sfondato un tetto legalmente definito. Per questa prima parte è veramente tutto, torneremo sui mercati con due ospiti subito dopo il giornale radio. Le 18, 8 minuti e 5 secondi, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia, di nuovo buonasera, gentili ascoltatori. C'è chi ci chiede perché si è messo in collegamento in ritardo, quando ormai stiamo finendo la discussione, di cosa stavamo parlando in proposito di libri. Abbiamo parlato di questa legge approvata il 20 luglio al Senato, che fissa limiti e sconti sulle promozioni, per cui a partire dal 1 settembre anche i rivenditori online non potranno applicare sconti superiori al 15% del prezzo di copertina, e solo in caso di particolari rilevanze, in casi di particolare rilevanza, come per esempio il Salone del Libro, insomma manifestazioni particolari, lo sconto può arrivare al 20%, e le campagne promozionali possono durare al massimo un mese, ma non si possono effettuare nel mese di dicembre. La discussione era esattamente su questo e più in generale, naturalmente, si è ampliata al tema della concorrenza. Vedremo nei prossimi giorni se riusciremo a tornarci, perché abbiamo visto che appassiona, si attendono le prese di posizione dai grandi rivenditori, come proprio quelli online, Amazon e IBS per esempio, che hanno già fatto scattare una serie di sconti che ci saranno fino al 31 agosto, ossia quando di fatto scatterà la legge. Ora noi ritorniamo ai mercati. Allora, il quadro di borsa sostanzialmente ve l'abbiamo dato e vi abbiamo anche detto già da lunedì che è una settimana oggettivamente piuttosto nervosa. Lunedì abbiamo iniziato con cali per i bancari italiani che sono arrivati oltre l'8%. Poi un parziale recupero nella giornata di ieri e poi oggi di nuovo tutto giù, meno 2,81% sul FTSE MIB, meno 2,65% sul FTSE All Share, e tutto questo mentre l'Europa andava decisamente meglio, seppur male. E poi c'è l'altra questione, quella, e forse è proprio questo alla base di tutto, la grande tensione che c'è sul debito sovrano italiano, lo spread, ossia la differenza di rendimento tra BTP e Bund a 10 anni, ossia i titoli di Stato italiano e i titoli di Stato tedeschi, che viene usata come parametro per misurare il maggiore o minore rischio default, per quanto lontano, ha superato nuovamente i 300 punti, è arrivato a toccare quota 312. E poi c'è questa prima pagina, questa apertura del Financial Times di oggi, il titolo: Deutsche Bank si protegge dal rischio Italia, perché nel bilancio di fine anno, a fine 2010, Deutsche Bank aveva in portafoglio 8 miliardi di debito italiano, i titoli di Stato italiani. Alla semestrale presentata ieri si era ridotto a 997 milioni, meno 88% in 6 mesi. C'è Fitch che dice: per l'Italia potrebbe rendersi necessaria una manovra correttiva se l'economia frena. Risponde, anche se indirettamente e per quanto possa valere, la Commissione Finanze della Camera, che con una risoluzione chiede al governo di intervenire, perché dice: le agenzie di rating fanno aggiottaggio, vanno denunciate alla neonata autorità europea di controllo per il controllo dei mercati. E vabbè, ma questa naturalmente è politica. Angelo Drusiani, responsabile gestione di Banca Albertini SIS, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Nostro punto di riferimento quando parliamo di titoli di Stato e di mercato obbligazionario. Saluto anche Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano, tra l'altro con una lunga esperienza anche di mercato, e editorialista del giornale. Borghi, buonasera. A voi. Allora, inizierei da Drusiani. Che fase vede e soprattutto come interpreta questa mossa, se così la possiamo definire, questo alleggerimento del portafoglio da parte di Deutsche Bank? La banca tedesca, come tutte le banche tedesche, ha in portafoglio, in questo caso bisogna dire aveva in portafoglio, una quantità molto elevata di titoli di Stato dei paesi di area euro, ovviamente scegliendo quelli che offrivano un rapporto rischio-rendimento migliore per quanto riguarda l'Italia e altri invece con un rischio puro maggiore per quanto riguarda Grecia, Portogallo e Irlanda. Ora, di fronte a una situazione che è venuta via via peggiorando, diventando sempre più difficile, di fronte alla possibilità e all'opportunità che le quotazioni abbiano una tendenza negativa, potessero avere una tendenza negativa per un certo periodo di tempo, perché ci si è resi conto fin dall'inizio che trovare un accordo tra le varie autorità europee, la Banca Centrale Europea e lo stesso Fondo Monetario diventava difficile, era abbastanza evidente, anche se non con questa forza, con questi livelli di prezzo, che quella che viene definita normalmente speculazione avesse la possibilità di attaccare, tra virgolette, i debiti pubblici, e ovviamente il nostro purtroppo è un debito pubblico che presta la possibilità di essere attaccato in maniera importante perché è molto alto. Prestiamo il fianco, è vero che il rapporto deficit-PIL non è male, abbiamo anche un avanzo primario, questo è positivo, però di fronte a 1.800 miliardi di euro di debito è chiaro che complessivo, è chiaro che qualsiasi stormir di fronte crea dei problemi, e quindi in una situazione in cui c'è questa incertezza, c'è una manovra finanziaria che non tutti la nostra hanno apprezzato, lo stallo americano che bene o male ha effetto un po' su tutti i debiti, chiaro che chi aveva già avuto problemi in passato per la leva eccessiva, queste Deutsche Bank nel 2007 in particolare, avrà ritenuto che forse era meglio ridurre l'esposizione ai titoli di area euro dei paesi meno virtuosi, tra i quali il nostro. Allora, mi sembra chiarissimo. Adesso noi abbiamo una breve pausa per la viabilità e poi girerei tutte queste domande a Claudio Borghi per avere appunto anche la sua opinione e la sua visione su quelle che possano essere le prossime settimane, perché ormai, diciamo, possiamo dire tranquillamente che stiamo navigando a vista. Le 18:16:37. Allora, Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari alla Cattolica di Milano, come legge questa fase di mercato? Ma io la vedo un po' simile purtroppo al 92, vale a dire, in realtà noi stiamo attaccando un problema con degli strumenti che sono a mio parere sbagliati. Vale a dire, quando c'è un problema di base che è emerso, vale a dire quello del debito sovrano nell'area euro, se noi lo risolviamo con un fondo, come si pensa di fare, per comunitario che sia o cose di questo tipo, in realtà ci scontriamo contro il fatto che ci sono sempre più titoli di debito potenzialmente da vendere di quanti ne potrà mai comprare un fondo che ha delle dimensioni definite. È un po', se vogliamo, per chi se lo ricorda, all'epoca il problema del 92, quando la Banca d'Italia pensò di contrastare le vendite sulla lira vendendo le riserve. C'erano più lire da vendere che riserve da scambiare contro gli acquisti di lire. La speculazione internazionale lo sa, e più che speculazione vorremmo dire gli investitori, perché è una parola che non mi piace, comunque gli investitori lo sanno e quindi percepiscono il rischio. Un'osservazione banale, perché quando la crisi era al massimo del problema, vale a dire 3 anni fa, gli interessi sui titoli di Stato erano a zero, quindi vale a dire che le richieste per i titoli di Stato erano clamorose, tutti li volevano. Eppure la crisi era molto più intensa 3 anni fa rispetto a quello che è adesso. Come mai? Semplicemente è un riflettore della paura dei mercati che si sposta da diverse parti. Allora era puntato verso le banche, e quindi le banche internazionali, varie Morgan Stanley, Merrill Lynch e così via, precipitavano e dovevano essere salvate, quindi tutta la preoccupazione si spostava lì e i titoli di Stato venivano visti come una cosa molto salda e molto sicura. Adesso il riflettore si è spostato, una volta messo in sicurezza gli stati, le banche dagli stati, sono gli stati a non dare più garanzie, ma specialmente non le danno gli stati europei, perché non hanno una banca centrale che stampa soldi per loro. Chiarissimo. Drusiani, lei concorda con l'analisi? Sì, indubbiamente il ricordo del 92 è molto triste, bisogna riconoscere, e qui bisogna dare ragione a Vico quando parla dei corsi e ricorsi storici, perché in effetti la situazione è abbastanza difficile da affrontare, anche perché i paesi implicati, tra virgolette, in questa situazione di difficoltà del debito pubblico sono tanti, perché oltre alla Grecia, insomma, il solito PIX, però non dimentichiamo che anche il Belgio ha una serie di problemi, anche la Francia ha una serie di problemi, quindi in sostanza l'area euro è abbastanza difficile che possa uscire da questa situazione, ma purtroppo abbiamo anche gli Stati Uniti. È vero che negli Stati Uniti la Federal Reserve stampa moneta, magari compra anche i titoli per evitare che scendano di prezzo, però anche il debito pubblico americano non è che sia sia in gran forma. Al di là della situazione legata al 2 agosto, quando questa ipotesi di sforamento del debito potrebbe in qualche modo ridare fiato al mercato, però credo che anche quella situazione non comporterà un grosso miglioramento dell'incertezza che c'è sui mercati, quindi sicuramente viviamo una fase difficile, però il professore giustamente faceva riferimento alla differenza tra 3 anni fa, 2008 e oggi, dicendo che erano le banche ad essere in difficoltà e i debiti pubblici andavano abbastanza bene. Oggi alcuni debiti pubblici vanno ancora bene. Io sono scandalizzato dal fatto che il decennale tedesco offre 2,65%, che è un rendimento che è veramente, se qualcuno, un risparmiatore privato, volesse comprare questi titoli con durata decennale, tenendo conto delle commissioni, dell'imposta del sostitutivo 12,5, in 10 anni porta a casa un rendimento che non è neppure del 2%. Quindi questo cosa significa? Significa che siamo in una fase in cui c'è una grossa differenziazione tra chi investe per ottenere un rendimento teorico e chi investe per ottenere sicurezza. Chi investe per ottenere sicurezza si disinteressa del risultato, del rendimento in questa fase. Viceversa, chi ama rischiare tenta di comprare, cioè tenta, compra titoli anche con rendimenti teorici molto elevati, prendendosi un rischio grosso legato all'andamento della quotazione nei prossimi mesi. Allora, detto ciò, da quel che ho sentito da tutti e due, l'impressione abbastanza netta è che una via d'uscita nessuno dei due la veda, insomma, quantomeno non a breve, Borghi. No, la via d'uscita ci sarebbe, però è... Abbiamo qualche problema di collegamento. Adesso vediamo se riusciamo a sistemare le cose. Giro la domanda a Drusiani. Sì, purtroppo la via d'uscita è una brutta parola che in Italia si chiama patrimoniale, quindi è una parola che non si può pronunciare, perché io credo che serve all'Italia per dare un segnale importantissimo ai mercati la possibilità di vedere finalmente il trend che aumenta, il trend progressista del debito pubblico finalmente fermarsi e scendere. Non si può continuare a vedere un debito pubblico che mese dopo mese aumenta, siamo a 1.800 miliardi, tra un po' arriveremo a un livello ancora molto più alto. Quindi ciò che serve all'Italia, ciò che serve ai mercati sarebbe quello di vedere finalmente una manovra importante che possa far sì che le entrate siano cospicue e che possano essere portate a riduzione del debito pubblico, perché il debito pubblico italiano è troppo alto e di conseguenza i 75-80 miliardi all'anno che si pagano di interessi sul debito pubblico, in teoria con le prossime emissioni questo importo aumenterà, perché i rendimenti di mercato di oggi sono nettamente superiori a quelli di un mese fa. Domani ci sono 4 aste, 2 di CCT e 2 di BTP, uno triennale e uno decennale, che verranno collocati a rendimenti crescenti, quindi questo sicuramente alle nostre casse non fa bene. Il timore è che se i rendimenti dovessero rimanere a questo livello, i rendimenti dei titoli di Stato italiani nelle prossime aste, una parte della manovra finanziaria, una parte dell'entrata della manovra finanziaria finiranno non a riduzione del debito pubblico, ma purtroppo a pagamento degli interessi del debito pubblico. Perché si è detto, e lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, si è detto spesso insomma il rischio contagio. Nella sostanza il rischio contagio, l'effetto contagio c'è già, perché ogni volta che gli spread salgono, ogni volta che salgono gli interessi sul debito italiano, di fatto dobbiamo pagare di più. Nel frattempo arriva ora notizia che il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha citato la manovra italiana come esempio per la riduzione del deficit, torna a insistere sulla necessità di applicare il patto di stabilità, rafforzare la competitività e impegnarsi nelle riforme strutturali, qualsiasi cosa questo voglia dire. Ci scrivete al 349-238-6666 dandoci dei gufi e dicendo: ma lo sapete che lo spread del Portogallo è molto più alto? Sì, lo sappiamo che lo spread del Portogallo è molto più alto, ma è dell'Italia in questo momento che stiamo ragionando, perché è questo che ci interessa. Naturalmente le condizioni sono molto diverse. Allora dovremmo riavere Borghi, al quale rigiriamo la domanda sul come se ne esce. L'avverto che mentre non era collegato Drusiani ha parlato esplicitamente di patrimoniale, cioè dice: se ne esce in un solo modo, si fa la patrimoniale. No, io non sono d'accordo, ma in generale non sono d'accordo nell'individuare nelle possibili manovre economiche la soluzione. La Grecia ne ha già fatte 4 di manovre economiche, gente per le strade, incendi e così via, eppure non è cambiato di una virgola il suo differenziale di tassi. Per cui in realtà qui siamo di fronte a un sistema che si è scoperto essere sbagliato. Il sistema dell'euro si è scoperto essere sbagliato, ne dobbiamo prendere atto. Nel momento stesso le economie europee avevano dei tassi di interesse differenti, noi avevamo il 12% come Italia e non era niente di strano, era la normalità. Però perché si aveva il 12%? Si aveva il 12% non perché si giudicava il rischio Italia, si giudicava semplicemente il differenziale di tassi di interesse, vale a dire nessuno dubitava che il BTP venisse ripagato, veniva ripagato con carta svalutata. E quindi per compensare quello si tiravano in altri tassi. Adesso la carta non si può più svalutare perché la moneta è sempre quella. Allora a quel punto lì, finché tutti erano convinti della comunitarietà del debito dei paesi membri dell'Europa, andava bene. Nel momento che la Grecia ha fatto capire che quando uno degli stati avesse dovuto avere problemi di debito, gli altri tossicchiavano, vale a dire non c'era quella certezza di dire sì, non c'è problema, è debito comune, perché nessuno poteva prendersi questa questa responsabilità, a un certo punto gli stati europei sono diventati orribilmente a rischio default. E fra la paura di svalutazione e la paura di non vedersi restituiti i propri denari è molto più forte la paura della non restituzione dei soldi. Da qui il panico, aumentato dal fatto che i mercati sono molto più volatili e c'è molta più facilità di spostare denari da una parte all'altra. L'unica maniera per venirne fuori sarebbe accettare una specie di garanzia europea per tutti i debiti già fatti, ma chi può a prendersi la responsabilità, specialmente fra i paesi più ricchi, di spiegarlo ai propri elettori? Al momento non la vedo facile. Quindi, in sostanza, c'è un blocco. Allora, noi siamo sostanzialmente in chiusura. Drusiani, io per dovere di cronaca le devo dire che la proposta di patrimoniale sta scatenando dai nostri ascoltatori qualsiasi cosa, tra chi fa altre proposte, come il taglio forte della spesa pubblica, la caccia agli evasori, chi dice perché dovremmo pagare la patrimoniale sul debito fatto da loro, ci vuole la rivoluzione, però insomma glielo devo dire per dovere di cronaca. Grazie comunque ad Angelo Drusiani, responsabile gestione di Banca Albertini SIZ, buonasera. Grazie a voi, buonasera. E grazie anche a Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano, buonasera. Grazie, arrivederci. Le 18:27 minuti, 54 secondi, termina questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Fabio Cantadori in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, una buona serata. Radio 24. La passione si sente.